Come va? Sì, qualche volta a piedi, qualche volta in pullman, qualche volta in bicicletta già. Anch'io, domani in tram, ogni mattina, per fare il nuovo, quella specie di se nuovo che bisogna fare. Dopo il vento l'accio sotto, no? Cosa, Antone? C'ho un po' di vento là sotto. Non si è sentito nessuno. La verità non ho sentito nessuno. Proprio nessuno. Duc. Ciu Ma cosa, quello di Cristian? Quello di Tore. Di Tore? Chi? Qua, via Magellano. Non sapevo niente io, quindi, la verità, so già sarei venuto. Vienici che c'è l'inaugurazione, aiuto, scendi. Adesso non ci posso scendere, sto facendo, mettendo a posto i documenti per domani mattina, a fare quel cazzo di cagata dell'Ise Nuovo, e poi c'ha un nome strano, cioè che se non farlo entro questi giorni qui, se no perdo tutto, capito? Non mi danno niente il 27. L'Ise normale devi fare, io l'ho rinnovato stamattina il reddito. Sì, c'ha un altro nome, non è che sia l'Ise normale, aspetta. Non mi viene in mente, comunque. E poi l'avevo fatto, quando l'ho fatto? A gennaio, e ce lo fanno rifare ad aprile. Cosa cambia? Non lo so, vabbè, sarà l'ISO ordinario. Uno non ha giocato io, infatti non mi ha detto nulla, né che ci vuole quello corrente, né che ci vuole altro. Uno ne faccio io ogni anno. L'ho fatto a gennaio, so che c'era da fare anche questo da primo di aprile. Capito? Adesso domani ci vado, vediamo un pochettino per usare questa storia di questo cazzo di se che vogliono. E che cambiano i parametri, capito? Patrimoniali. Magari a te, io l'ho rinnovato, anzi ieri mattina l'ho rinnovato e non mi ha detto nulla, tutto a posto, mi ha dato le ricevute. E ne faccio uno solo. L'ISE corrente te lo chiedono per determinate cose, se devi fare determinate cose, capito? Ma se devi fare le solite ti chiedono quello lì e anzi lo vedono loro dal computer direttamente quando vai a fare il rinnovo. Capito, adesso mai a tirare, ci vado e vediamo un pochettino cosa fare. E poi giovedì devo portare tutta la documentazione per la 104. Dal medico, cazzo. Poi da lì devo andare di nuovo al CAF per portare il foglio per poterlo spedire all'INPS. Ma tu ad aprile il tuo scadeva lo stesso, no? Il 27 te l'hanno dati però. Sì, sì, al 27 di marzo me l'hanno dati. I soldi. Ad aprile dovrebbero darmi lo stesso, però questo rinnovo che bisogna fare è cambiare i parametri, capito? Devono fare tipo aggiornamento, non so che cosa diavolo sia. Quoziente familiare si chiama. Non si chiama più ISA, si chiama quoziente familiare. A me ieri non mi ha detto niente, comunque ad aprile non te ne danno. Se lo devi stare rinnovando non te lo danno a aprile, capito? Ti fanno il rinnovo, adesso infatti dovresti andare dall'1 in poi, se vai domani a fare il rinnovo, ma questo mese non ne hai. Adesso vediamo un po' da cosa diavolo mi dice. Domani vado lì al CAF e vediamo cosa diavolo mi dico. Se devo fare rinnovo, se non devo fare rinnovo, se no non c'è nessun problema, capito? Vabbè, Ginko. Alessio, ma come? Non ti sente, Alessio, no, capisci. Vedi che c'è un'antenna di Roma, so che come te è dell'antenna, Chissà cosa gli hai fatto. So come lui è con l'antenna. Non ci vai al circolo, Manuel? Al circolo? Al circolo. Oggi c'è l'inaugurazione del circolo lì, via Magellano, Vittore. Vittore? E attore? Vittore Pinna. Ma tu, Vittore Pinna? Cazzo che abita qua dietro a me. Cazzo ne so, Vittore Pinna, al circolo verde, ne so due circoli. Cazzo, non conosci Vittore Pinna, voglio. Ma com'è la sua voce se manda di un pari, se non abitato un caffè ai punti, bulu, via. Ma che circolo c'ha? Già ho capito, che circolo c'ha perché è l'inaugurazione? Via Magellano, il primo dopo l'Intas, non c'era un circolo lì, l'avevano chiuso. Ma perché il suo è quello? L'ha preso lui adesso, e ha fatto tutto nuovo, inaugurazione, sta facendo oggi. E che cazzo di sabbia, la prima cosa intendeva? Ma se ti era già mandato l'invito. E beh, lui bene, ascolti tu, sì. Con le orecchie. Antonella non ti vuole sentire. Manco se ti buono un megafono. Antonella Marone. Fiorellino! Atari, a te le immagini, c'è l'antenna sorda quel marone di Pomponio. Sordo, Comparsi una canna a pesca. Cosa hai detto? Comparsi una canna a pesca, ma è strano che non ti intendi però. Capita, se arrivi 9:10 al monte. Quanti passi non intendete Antonello? C'ha QRM alto per via delle dei ponti 5G e delle cose dell'alta tensione. Se non arriva un certo segnale, ma non ti sente manco se ti ammazzi con quel 140. Se non c'è un'antenna allora giornale è fuori mari. Ma non intendi che si verrà tirozzi, ne manco. No, ma c'ha il QRM un bel alto. È come quando io c'avevo l'antenna vecchia, ma non c'avevo quell'antenna, io va più. QRM sempre a Santiago 7 fisso. Se tu arrivavi 6 non ti sentivo. E infatti da quelle zone se non si giamba antenna, che ripetitori sono fanno dei casini. Perché lui c'ha il ponte ripetitore della 5G. Lì. Più c'ha il QRM dell'alta tensione. Ed è un casino. Se non arrivi forte di segnale non ti sente. E così è. Ripetitore, ne ho due ripetitori per esattamente 5G piazzati, uno no, mi sembra che è TIM e l'altro è Vodafone. E poi c'ho i tredici che ce li ho neanche a 150 metri in linea d'aria, capito? Che passano sopra le villette dei comunisti, quelle che ci sono in via Morandi, quasi a 4-5 metri d'altezza, non di più. Infatti ogni anno vengono e quelli del comune e cominciano a tagliare i rami degli alberi, se no qualcuno ci rimane con il giardino. Natali, sì. Adesso vuoi Antonello? Una cattura mentre che si era giocata a te. Preciso, una cosa del genere, la sei tu mentre intendi giallo. E anche perché col QRM è un problema. Ma infatti mi ricordo che lo diceva sempre che lui 140 o comunque similare così non se ne bigliava proprio per questo motivo, perché gli faceva sempre questo problema di cosa? Ma è buono l'antenna, magari basta si giamba l'antenna. L'avevo fatta per Giovanna, già si aveva in dubbio. Ma a te ti sente lui? Sì, a me sì. Ma non sentire Emanuele con il microfono amplificato. Insomma, arriva dappertutto. Sì, deve essere messo male lì. Con quella scatolina lì, adesso non ti intendi bene. Io so. C'è un segnale 8 di QRM, figurati, fisso lì. Segnale 8. Se non passi l'8, non sento nessun altro. Lui, anzi, questo ne fa di meno, ma se 80 era una cosa allucinante. Se non arrivavi 9,5, 9,10, non c'era verso. Specialmente quando faceva vento. Ma è da poco. Io ti dico che sono impossibile. Certo che è un macello. Quando gli hanno messo qui i ponti ripetitori è ancora peggio. Non ha sentito 8, ce l'ha il QRM. Fisso. Pensa a due, ui, cazzo, ma curati quelli di Alghero sempre, pensa a due, quelli che modulano da Sottotorre, Salvedo, che se la mettono in balluca, ma adesso? No, se non passano il segnale di 8, non li sente, no? Avanza di scansione, che qua, oh yeah. Purtroppo mica è colpa sua. Se gli hanno messo i tralicci dell'alta tensione lì e in più quei punti ripetitori che gli fanno quel QRM non è colpa sua. Ma qualcosa può eliminare, qualcosa può fare. Non ti credere, no. Magari piazzando un'antenna come quella che ho io e in più mettere quella scatoletta che stavo dicendo Luca. Se no un cazzo. Se non abbassa il QRM si butti. Io, per carità. C'ha quella mantova turbo che sono già molto rumorose di sé, quelle antenne. Figurati con l'alta tensione e con i ponti della 5G. Allora, adesso facciamo bene attenzione. È logico che c'ha QRM. Che qualcosa non tu come mi ascolti lì, Natale, da te? Io che sei una bomba, sì. Pensa a du, oh yeah, Luca, figliatela. Sì, quasi 9.30. 9.30, sì. Che taglioli, così è. Sì, a me infatti la mantova, ma così me la regalano in uva in ballata la Bonghi Nonghi, con un ripetitore che va già luci. Si va il ripetitore vicino in chi dice ti buono la mantova, non c'è da nessuno. E non l'ho visto dove ce l'ho io, è nel campo. Non l'hai visto dove l'hanno messo. Ma c'è già un po' di anni, E tu ce l'hai davanti lo stesso. Eppure quasi QRM1 io. Con questa antenna c'è QRM1, 1,5. Perché il principio di quella che ho io, quell'antenna che hai tu, se tu metti un'antenna di quelle manto va cazzo, diventi matto. È stata vista in quel caso. La direttiva prima che mi metto, come avevo fatto una volta, un dipolo orizzontale, fatto in alluminio e sentivo a tutti, te lo ricordi? Ma a Claudio Risplatte sentivo tutti chiari. Perché non te lo tiri un dipolo orizzontale? Dove c'è la cosa la posso piazzare, dove c'è l'antenna VHF che è più giù, posso metterlo lì, un dipolo, me lo costruisco, il cavo già ce l'ho, non è quello, vabbè, ma c'ho 60 metri di cavo del VG213 ancora qua a casa, la voglia al cavo. Ma ti abbassa il segnale che siamo tutti in verticale, capito? Sì che ti abbassa parecchio il segnale, è comodo per tante altre cose, però nella verticale di buio e bu. Ehi, ma allora devi cavarmi la manta qua, mia devi cavare, perché quella che ha lui è la più rumorosa che c'è, perché lui c'ha la manta qua a turbo, la più silenziosa delle manta è la manta qua a uno, la più silenziosa mi è più da QRM e buruista. Infatti, hai confermato, mi da QRM e buruista, Natali. Chissà, la stella. Purtroppo è un casino oggi con queste antenne. Poi ci sono molti ponti ripetitori, ci sono anche quelli delle forze dell'ordine che ogni poco c'è un ripetitore, se no da qui a lì col tetra non si sentono e quindi la città è disseminata di questi ripetitori. Dove c'è Claudio, 20 metri più giù hanno piazzato un ripetitore telefonico e poi c'è un ripetitore... Non penso sia ripetitore, dovrebbe essere una cosa, ma c'è un'antenna per TV, c'è. Ci deve essere qualche animatore lì che usa il coso. Capito? Impiegata a cieli. Poi vabbè, via fuori lì cioè, ci sono due antenne, a canale a pesca ci sono piazzate, una al primo piano e l'altra è all'ultimo, nella proprio all'angolo con dove c'è il banco di Sardegna, sì, l'ultima palazzina. Boh, non lo so, comunque fatto sta che ci sono anche i ponti ripetitori dei vigili del fuoco, dei vigili urbani, hai vicino tu, perché sono passati tutti in tetra e se non hanno ponti quelli non si sentono da qui a lì, quindi la città è disseminata di quei ponti in radio lì, oltre che quelli telefonici e in più tralicci dell'alta tensione tu hai vicino. Esatto, sì. Quelli sono belli tralicci. Mi passano proprio un po' più basse della manta, ma sono. Ah, non lo sai, no. Quanti posso dire? Due piani, non di più, più bassi dal palazzo mio. Quindi figurati, ne passano uno, due, tre, sono tre cavi da una parte e tre cavi dall'altra, se me ne passano, fino ad arrivare alla cabina. Non ce l'hai quella canna da pesca tu, l'antenna? Perché lui li riteneva... Quella che ti aveva fatto Luca. Ce l'avevo, ho regalato la canna da pesca, ho regalato il baracchino quando me l'ho dato, gli altri ricco che avevo comprato uguale a quello tuo e l'alimentatore, l'ho regalato a cosa? A lei l'ho regalato, per campagna, l'ho aspettata in campagna, era lui dove lavoro io, capito? Me la faccio, qui è un casino la piazzata, non potevo pensare nel casino di Giovanna perché hanno appena vista piazzata mi hanno detto cosa e quindi non le vazio tutta, ho preso e gli ho regalato tutto, alimentatore, baracchino che trovo l'ho scatolato e l'antenna e il caffè gli ho regalato. Cioè, se vado, ma te immagina di Natale? Allora, chi sa quanto doveva arrabbiare si lampavi e ti piazzavi la canna da pesca di piazzavi. A Roma qualche cosa di manco di QRM bigliavi. Sì, vabbè, adesso aspetto e compro con la Tornado che ci arriva i lunghi 7 metri, lo stilo 7 metri. E più leggera e sono sicuro che esce molto bene. L'abbiamo 27 anni, funzionava benissimo, vedi? Quella QRM le pigliava la metà. Ma cosa, i bambi usetti di QRM fissu io. Il QRM a 7 ti avrebbe fisso con quell'antenna. Con la BA27L, sembra strano perché io l'ho usata, ne ho avuto due, e il QRM era totalmente diverso. ce l'ha Marco piazzata, questo è Marco, quel reme non è a morto, senti tutti. La mia era uguale alla BA27L, l'Energy, non ce l'avevo uguale a quella di Marco. Esatto, sì. Beh, a me non mi ha mai dato problemi, tanto meno a Marco. Poi non lo so, è ancora bella tettera in piedi quella di Marco. Già c'è una piazzata lì sopra il tetto. Sì, già lo so, ma vuol dire che quel reme non è a lui, non lo so, a me mi dava Santiago 7 fisso di quel reme, se tu arrivavi meno di 8 col cavolo che ti sentivo, peggio di dei. Adesso aspetta un po', cosa ti dico? Adesso questi due mesi, questo mese ce l'ha da pagare la tassa bondezza, mi adesso le 12, saranno 100 euro come minimo, e poi speriamo di non rimanere, che i 27 mi paghino. Adesso domani faccio questo cazzo di cosa nuova che ce l'ha a fare, boh. Se ce l'ha a farla, se non ce l'ha a farla sta BQ. Questa specie di diesel nuovo, con 7 familiare, mi pare si chiama, quello per il reddito di cittadinanza. Speriamo che non mi lasciano tutto il mese di aprile senza la lira, se no sono fregato davvero. Sì, questo mese non ne prendi, capito? È sempre stato così, Antonè. Quando c'è il rinnovo non ne prendono, perché loro poi adesso, quando tu fai il rinnovo, loro devono controllare. Non te li possono anticipare, non ne anticipano, perché se poi il tuo ISE risulta alto, che cosa fai? Capito? Invece loro cosa fanno? Bloccano, se l'ISE risulta a posto come lo scorso anno, allora te lo sbloccano il pagamento. Come fanno a tutti? Io l'ho fatto da poco anche lì, non è che l'abbia fatto da molto. L'avevo fatto, mi ricordo se gennaio, a dicembre l'ho fatto, mi sembra. Quindi, farlo nuovo adesso non penso che cambi la vita, no? No, ma infatti non serve farne un altro adesso. Io non ne ho fatte pure ieri, non mi ha detto niente, non mi ha neanche parlato di questo ISE nuovo. Però quando fai il rinnovo tu del reddito, loro mica lo guardano da quando tu hai rinnovato l'ISE, loro lo guardano non da gennaio, loro lo guardano da quando tu hai rinnovato il coso, capito? Il reddito. Sicché adesso loro te lo bloccano, controllano, fanno i loro controlli, se l'ISE risulta a posto te lo sbloccano per il mese di maggio. Capito, adesso vediamo un po' domani mattina cosa mi dici, quella del caffè, capito? Magari prendo il pescetto di questa storia qui, capito? Io l'ho fatto da poco, l'ho fatto, a fine di dicembre, quindi mi scale il ad aprile mi scale, no aspetta, mi scale alla nel 2000, adesso non mi ricordo, l'anno prossimo mi scale, 2024. Guarda il telefono, Antonè, ma tu da dove l'hai? Il telefono è già acceso, già. Ah, tu, aspetta, tu c'hai 210, il 371 devi usare. Ah boh, mi risulta spento, non ne ho altri numeri, mandami un messaggio. Il 371 c'è, aspetta, te lo dico il numero. 3210, io c'ho il tuo che finisce con 3210. Infatti quello ce l'aveva Giampiero, ho provvisorio, ho capito. Aspetta un attimo. Allora scrivi, segnati il numero 371 162 3461. Se mi dai il tempo di andare nella rubrica, fai pure, non c'è problema. Dimmi. 371 162 3461. Vai, su che andiamo, su dai. Fiorellino. Gloria, è ben attarina, sta a posto, sì. Tutto a posto da mettere a posto, Manuel. Guarda una Antonella. Sì, che c'è Falcone che sta ascoltando il rumore del pompurio, Cos'è quella cosa? Il coso, il fisso, Ho visto qua per me. Vabbè, cioè, è un apparecchio totalmente diverso, quello che stai usando c'è il fitti pure. Devi contare anche quello. Questo fitti glielo sai, non è A e la M. Quindi, l'unica cosa che me faccio qualche cosa vado e tanto l'ho visto lo fa, lo vendono quelle, quella scatoletta da installare per il QRM. Quello è un filtro di SP, non hai compreso nulla tu. Io so, l'altra volta c'era un tipo che lo stava vendendo l'apparecchio insieme al filtro, eccetera, eccetera. Oh, guarda. Quello ce l'ho pure io, ce l'ho. Io non ce l'ho, bisogna che... Adesso aspetto un paio di cose. Mese prossimo. Secondo com'è, già me lo prendo. Guarda, c'è 8 giambi antenna o ti buono 8 attrezzi. Guarda, non, so, non trovo più il video di quando io, di quando avevo il 140. Se ti facevo vedere la differenza. Con quel RM fatto, messo apposta alto mi. A vedere come ti ne lo bucava. Mica il video l'ho visto, me l'avevi fatto vedere mi. Quando hai fatto con le... quando hai messo quel filtro lì spariva del tutto e poi se ti ricordi c'avevi anche inserito il mixer addirittura per le, quando uscivi in trasmissione. Ma c'è anche il QRM Eliminator, adesso ti mando la foto, c'è anche quello. Insomma te si giravi i potenziometri, guarda, ti eliminavi proprio un silenzio totale, adesso ti mando la foto. Me l'avevo assemblato io perché avevo comprato solo il modulo. Ah, ho capito. Cava. Sì, va bene, ma non so. Tutto va vedere. Guarda, sono andata la foto. Già l'ho sentita, adesso la guardo. Ma che quella è una cannonata. L'avevo messo in vendita tempo fa. Questo qua è lo stesso, attacchi all'alimentazione, regoli, capito? Regoli con vedi che potenziometri che c'ha davanti, con quello lì aumenti o diminuisci uno, aumenti l'altro, guarda, senti proprio il silenzio. Chi è? Non sei uscito. Adesso sì. Sì. È molto male il microfono. Stavo dicendo, perché c'ha tre attacchi di PL? Uno c'è scritto antenna, l'altro trasmettitore e poi cos'è l'altro? Si attacca un'antenna fittizia, capito? C'è scritto anche, vedi che l'ho scritto, non so, a pennarello, l'avevo scritto. Un filo, un pezzo di filo, un paio di metri, tre metri, così glielo attacchi lì, serve, capito, quando si usano questi QRM Eliminetto. Un cappetto. Serve più che altro quando vai in trasmissione, capito? Perché con questo vai anche in trasmissione, tranquillamente. E questa, guarda, è una cannonata. Lo stesso. Tu una volta che lo attacchi, ti metti in un canale dove c'è QRM, dove c'è QRM, ti regoli un attimino e poi torni nel canale dove parli di solito. E me ne scende il QRM a zero. Sì, sì, tu lo vedi, grande a zero, proprio, e senti cose che non riusciresti proprio nemmeno a sognarti. Non ho capito. Vabbè, già... Vedo di arrangiarmi in seguito. Adesso, per il momento, non lo posso permettere, se no me l'avrei comprato. Quando vuoi ti faccio anche il video prima naturalmente, butto fuori un'antenna un'antenna così, giusto per farti vedere corrermi alto. Ho capito. E andare, ci andare. Senti, non te l'ho fatto, stavo pensando, il coso, non me la fa, non me la fa manca a me la magliettina, vera, è quella, del TAF. Anche perché io mi scade a dicembre, quindi sarebbe utile farmi l'ISE nuovo, che poi quello passa come ISE ordinario in pratica, capito? Ti diminuisce il valore patrimoniale in pratica, quindi sono sicuro, vabbè, comunque ci vado e chiedo, anche perché devo chiedere una cosa per la 104,1, a vedere se cosa c'è di buono, capito? Se c'è qualche bonus per Simona, così a me faccio le domande. No, non c'è niente di nuovo, a me mi arrivano le notifiche, i video, capito, di un avvocato anche, che quasi tutti i giorni, però c'è stato l'aumento per chi ha il 100%, c'è stato l'aumento, di bonus non ce n'è, c'è niente, chi ha 67 anni c'è un bonus, novità non ce ne sono altre, a meno che non abbia il 100%, allora c'è l'aumento. Per l'altra cosa, io ho fatto a gennaio, l'ho rinnovato l'ISE, ieri sono andato, me l'ha fatto tranquillamente, mi ha lasciato le ricevute, mi ha detto la solita cosa che mi arriva il messaggino, messaggio per telefono, basta, però purtroppo il rinnovo adesso, poi i pagamenti ripartono da maggio. Ho capito, no, io l'ho fatto a dicembre, la verità, per tutto quest'anno, perché io sono uno dei primi che ha capito che ha fatto il reddito di cittadinanza, quindi figurati, quindi l'ho fatto a dicembre, il rinnovo del mese scorso, eccetera, eccetera, mese scorso, vabbè, siamo già a aprile, quindi rifarmelo lato sarebbe inutile, perché la scadenza è a settembre, a meno che non sia fortunato e me la portano a gennaio 2024. A dicembre vi scade a voi. Speriamo se mi c'era una mattina a quella. Se mi dicono non devi fare nulla, allora sono tranquillo. Perché se tocca stare un mese senza neanche la vita, crocro. Io la faccio sempre a gennaio, non a dicembre, a gennaio. E anche io l'ho fatta a gennaio, l'ISE. Sì, che adesso poi rinnovo da cosa, il reddito a maggio, capito? Scaduto, aprile non te ne danno, perché devono fare i controlli e te lo riparte da maggio. Sì, già lo so che la prassi, mi è successo anche a me, mi è successo. Che avevo rifatto il corso. È successo una volta che avevamo ritirato, avevamo fatto la domanda del 15, siamo rimasti un mese senza la lira, siamo rimasti. E sono rimasto un mese incurato io. E poi abbiamo ripreso, poi ho ripreso normalmente, il 27 in pratica me la ritiro. Sì, beh, per forza te lo bloccano un mese, perché fanno i controlli. A tutti, ma non so a te, no? A tutti li bloccano. E di aprile non ce ne danno lui. No, se il tuo è scaduto a marzo, te l'hanno dato a marzo, l'hai rinnovato ad aprile. Se ti scade a marzo lo devi rinnovare il primo aprile, dal primo aprile in poi. Però in quel mese di aprile non te ne danno, capito? Ma no, è 18 mesi. Il tuo quando è che scade? Bisogna che andrà fatto il dubbio. L'hanno passato. Fai il conteggio e sai quando ti scade. Però il mese successivo, appunto, il mese del rinnovo, che tu hai fatto il rinnovo, non te ne danno quel mese lì. Te lo danno il mese appresso. Purtroppo è così. Neanche a me me ne danno questo mese. 18 mesi non l'ho passato io, quindi lo devo ridare fino a cosa? Mi scadeva, eh? Per farmi conteggi, va? Sta contro la Mironi, il lungo di Mironi sta contro. E anche a me sono passati 18 mesi, quindi me lo dovrebbero dare. Tieni d'occhio quando ti scade, perché poi te lo bloccano e magari te ne avvisi dopo di 2 mesi. E io adesso non lo so quando l'ho rinnovato. Mi pareva ad aprile scorso l'avevo rinnovato. Racconta che stava preparando. Quindi è un anno, no, un anno e mezzo. Ma perché l'applicazione non ce l'hai? Guarda, l'applicazione entra con lo SPID o nel sito dell'INPS anche. E cosa ti dice? Tutto ti dice, però ti devi registrare naturalmente. Entrare con lo SPID, poi guardi tutto quello che vuoi vedere. Io addirittura ho un'applicazione dove mi dice da anni andando indietro, tutte le volte che sono andato in farmacia, tutte le volte che sono stato ricoverato, tutti i risultati, tutte le volte che sono andato per dire a un pronto soccorso, cioè anche quello lì, io entro e so, voglio sapere quella visita in che anno l'ho fatta, vabbè, di chi, in tale data, pronti. Ma tanto è comoda questa applicazione. E io lo SPID ce l'ho. Dove devo andare? Entra sul sito dell'INPS e ti registri, o vai su MyINPS. Aspetta un attimo. Vedi, ma vedi quando mi cadi. Oh yes, che abbiamo. Ah, va, vuoi ciambare a basso, guarda. Vuole cambiare la password, gli ho detto entra con SPID e vuole a cambiare la password, però la password io non mi rammento. Prova a recuperarla con l'email. L'email già ce l'ho io. L'ultima ora siamo lì all'ospedale. Sì, adesso è forte, ti sento benissimo. Boh. Ti stanno aggiustando. È arrivata dai medici dell'ospedale del mare, dunque è ritornata a casa, piano piano potrà ritornare alla sua vita, mentre sul fronte delle indagini si lavora in maniera serrata e ancora caccia all'uomo per ricostruire l'identità dei due rapinatori a terra. Grazie per la Calvina. Allora adesso un casino è, no? Vuole cambiare la password. Prova a cambiarla. E come ti posso recuperarla io? No, non devi recuperare, se ti chiede di cambiarla la cambi. Ti chiederà un'email per vedere se sei tu, eccetera, eccetera. No, che mi vuole la vecchia password e in più a confermare la nuova password. Sì, cazzo. Guarda, di sotto ci deve essere scritto, non ricordi più la password. Ascolta, vai prima a chiamare il numero verde, a posto di schiacciare come fa di solito per sapere quanto ti è rimasto. Schiacci 11 e parli con l'operatore, fai prima, ti prendi fuori del tuo reddito di cittadinanza che c'hai e c'è scritto da quando l'hai fatto. Poi avevamo, se ti ricordi, rinnovato, abbiamo rinnovato l'anno scorso, io mi ricordo, che eravamo rimasti, se ti ricordi, Natali, un mese senza avere una lira tutti e due. Infatti dovevo comprarmi, mi sembra, l'apparato, invece non avevo comprato nulla perché ero rimasto un mese senza la lira. No, non c'è scritto nulla, assolutamente. Fai come si chiama? Nella tua cittadinanza comunque c'è scritto da quando l'hai fatto, c'è la data, c'è tutto, da quando è iniziato. Poi, vabbè, basta che chiami, intanto ti chiedo come si chiama il numero del foglio, della tua cittadinanza, capito? E poi da lì sai quanto ti scade. Io te lo so con 20. Ma posso schiacciare 1 e 2 come si fa il saldo, per sapere il saldo e cosa del genere? Non devi fare né 1 né 2. va direttamente 11 e ti dico e te Pavelli, come si chiama te? In pratica c'è la linea guida, che se vuoi rinnovare il reddito di cittadinanza, se lo vuoi eliminare, eccetera eccetera, se vuoi parlare con l'operatore, capito? Parli con l'operatore e tanto ti chiede il numero del foglio del reddito di cittadinanza, quello che ti hanno fatto la CAF, io l'avevo fatto alle poste, mi ricordo, capito? Infatti quando ho preso il foglio ce l'avevo buttato, io ho telefonato a loro e loro mi hanno dato il codice del cellulare e ciò 81341344427, in pratica sarebbe il codice del reddito di cittadinanza che c'ho io. Dico questo e mi dicono se la rinnovare oppure no. Ma che l'invalidità puoi vedere, Natali, sull'Inps? Se guardi il giorno 20 già ti dice che è stata, capito, messa in lavorazione. Non lo posso più fare perché non mi ricordo la password dello speed. Mi fa entrare nell'Inps, capito? Ma se tu vai sul sito sulla pagina dello speed devi cliccare dove c'è scritto sotto, non ricordo la password, capito? C'è scritto. Poi l'altro passaggio è di impostare una nuova password, capito? Inserendo sempre l'username, cioè il tuo nome, che non so cosa hai usato tu come username dello speed. Ma quello c'è scritto, c'è l'indirizzo di posta, capito? Però la password non andava bene, chissà che bene, e non me la fa vedere nemmanco. E non ti fa vedere neanche la scritta non ricordo la password, sembra strano. No, non me la fa vedere, aspetta un attimo, allora. Erano passati già un paio di settimane, la sua rete lui funzionava, a parte di... Adesso vediamo un po'. Io non sono... Sotto login dove scrivi la password per forza c'è scritto lì non ricordo la password, c'è scritto per forza, capito? Perché da lì ti fa entrare per memorizzare un'altra. Allora c'è scritto entra con speed, mi schiaccio qua e vado nello speed, ecco, e c'è scritto nome utente e password, ho dimenticato il nome utente o la password, vediamo quello che è accaduto, ma come ne parliamo. Nel libro si chiude con questa frase, però mi fa andare nel coso delle poste libro, ma che hanno solo le persone accanto a me, tu dici mia sorella Silvia e Piero Angelo. Vediamo, non sarà possibile avervi una volta fisicamente al mio fianco ancora, ma vi porterò con indirizzo email, sarete promesso, loro sono davvero le due persone, ah va, vi rubongo, alle quali vi siete collegate chiaramente. Ah, che casino, una vita le... Se no vai sulla sezione aiuto e lì risolvi lo stesso, se non te la fa fare, ma solo se non te la fa più impostare, capito? Perché poi la password dura 6 mesi, non è che dura sempre, capito? Infatti ti obbligano ogni 6 mesi a cambiarla la password. E se no ti suscita delle poste e lo cambi da lì, perché l'hai fatto tramite le poste, cioè è da lì. E vai su dove c'è scritto voglio recuperare le mie credenziali o il mio nome o la mia password. E già sto andando adesso, dice mi hanno inviato un link all'indirizzo di mail. Vediamo un po'. Provate a chiamare Natali. Se l'hai fatta alle poste, entri sul sito delle poste, se bisogna dove l'hai fatta, capite? Aspetta, la sto cambiando. E poi prima della scadenza bisogna sempre cambiarla, anche dopo generalmente è un macello, non sempre, invece la cambi direttamente ogni 5 mesi prima che scada. Ah, è Brigida. Ah, è Lucciola. Su che andiamo, su. Emanuele ha chiesto anche l'aumento, Natali, che lui conosce la Miluni. Io devo lavorare per pagare la pensione a voi, cazzo. Schiavo, lavora, che ti fa bene, togliti quella gabbia che ti hanno... Ehi, raga, sei piccione, la massa di nevaria. Ehi, vabbè, fa la domanda, quella domanda là... capito? Magari ti chiama, magari di già mai, ma io dico appunto se serve gente e sei iscritto a queste tipo alle categorie protette, all'ufficio di collocamento e non ti chiamano, a me non manni mai chiamato una voce dall'ufficio di collocamento, fanno punendo i timbri in capo per i bonghi i timbri e non ti chiama, lo so, ma non ti chiameranno mai. Io sinceramente non ho mai lavorato dall'ufficio di collocamento, mai e mai ti chiameranno. E lo sai perché? Te lo dico io, perché non mettono obbligatoriamente le aziende, le imprese edili e tutto quanto, obbligatoriamente, che se vogliono personale devono obbligatoriamente passare tramite loro. Invece questo non succede, tu vai in un cantiere, ti serve un manovale, un muratore, sì, pronti, da domani sei assunto. Invece no, se loro li obbligano veramente, allora l'ufficio di collocamento in automatico vede Emanuele, vede Luca, vede Natalino e chiama, capito? Invece che da maniera tu aggiornavi i buoni di timbri, oh yeah. Già lo so. Chiamavano solo come fanno tuttora adesso, alla gente incostata, basta. Più che così, la gente che c'ha i timbri o non timbri non ti chiamano. Esatto, e poi la Meloni dice vai obbligatoriamente quando fai questa domanda devi andare all'ufficio di collocamento e iscriverti. Cazzo, ma a Ganni mai chiamato però. Per quello stanno facendo questi casini in televisione. Dice che non ne trovano personale. Uno l'ha fatta la domanda. Però se non chiamano a quei pannaghi tu. È un casino. Vabbè. Adesso quando uscirà l'altro reddito dice che deve uscire questo reddito mia, quella è il casino che succederà dopo. Ne stanno bloccando molti per piccoli reati, ma veramente per una gazzata, per un furto, per dire a un supermercato, di una cosa, no? E loro lo vedono che hai avuto questo precedente qua, ti bloccano il reddito, è una scusa che non sta né in cielo né in terra, togliere il reddito a una persona perché ha fatto questo e non so entro quanto tempo, 10 anni mi pare che, 10 anni devono passare, ma ti rendi conto? Questo è un fuori di testa, vedrai che ci sarà qualche rivoluzione qua, non mi gridi, no. Già che bravami così, se tu fanno questo cazzo dell'altro reddito mia, come cavolo si chiama, vedrai il casino che succederà ancora. Quello sì, perché con le nuove normative, con le nuove regole che stanno imponendo, che stanno mettendo, farà succederà un casino per parecchia gente, capito? Chi ha detto che da Calabria nei Nazzaziani a fare casini, capito? Per far sì che non lo togliessero. Dice, voi fate bene a parlare al nord, ma al sud è sempre stato così, c'è una vita così, sia al sud che le isole, è sempre stata la crisi, c'è sempre stata. È uno schifo, no, non passerà mai la crisi, te lo dico io, non passerà mai, e man mano che andiamo sarà sempre peggio. Io dico, ma se non c'è crisi, allora perché li metti gli aiuti, come c'era il REI, come c'era il REIS, come c'è il reddito, perché li metti allora, se non è vero che, scusa, mettili solo a chi veramente non può lavorare, come i pensionati di invalidità che sono costretti, quelli, li metti a quelli di bassa e fai questa legge qua, se è vero, e come mai però li dai a tutti, ai tossici, li dai a tutti chi ci viene a, chi è che lo assumerebbe un tossico? Quando arrivati sono sempre peggio degli zombie in carriera, vuole impullare la birra, ma a quelli però glieli devi dare, guarda, per quello c'è una cosa, una cazzata che hanno fatto lì, cioè Guido è per colpa sua che è diventato così e che non ne vuole uscire, perché tanto dice a mangiare un anno, meglio lo metadone a Rosert, capito? A chi si bruppi non me l'avevo dato bruppio, a chi si dà salvati lento, a chi si dose di mai intossicarsi e non avevo dato bruppio nulla, a di bruppio. Adesso con la crisi comunque che è entrata anche da Muccioli, il reparto che ha chiuso, perché non riescono neanche ad andare più avanti neanche loro. So sempre bene Emanuele Muccioli. Ah, perché? Perché la gente comunque ne vuole uscire, tantissima ne è uscita, centinaia, migliaia di persone ne sono uscite grazie a Muccioli. Però molti non ci vogliono neanche minimamente andare. Mi dice la camera faceva, va giù una caccia birra a rasi che mi bigo, va giù un reddito, se non si affutti. Capito? Appena la cosa si lo fa in vena, lo metà da ore, che schifo, e dai. E lì la si buo un reddito, mi sembra si grebbo che non lo. Che la guida che ha furato va a mangiare al supermercato, e lo so continuando la strada e pure a regalare otti. Madonna qua. Verrà lo piacinava la sostituire. Io mi auguro che sostituire a che cosa, non manco le basano le macchine a gabbo. Oh, sono in mai IMPS, dove devo andare per vedere la situazione? No, sul sito stesso dove eri sul coso, no? Sullo speed. Direttamente lì di fallo, ma guardalo da lì. E dove? Nel coso delle poste? Ma certo, l'hai fatto lì. No, ma io sono già dentro l'IMPS, per vedere il coso erami. Io c'ho l'app, capito? App My IMPS. Vabbè, io sono col computer. In My IMPS c'è certificazione unica, bacheca, centro notifiche, i tuoi servizi e strumenti. È in discesa, è l'eterno, diciamo, destinato a rimanere nell'ombra. Ma insomma, veramente ha fatto... Ora c'è scritto cerca, digitali. Cosa devo scrivere? Una rara della regina. In cerca. Scadenza RDC e ti fa entrare nella pagina dove c'è scritto, ti chiede i tuoi dati e ti dice quando scade il tuo. Comunque ogni 18 mensilità, capito? Dovrebbe essere marzo, aprile, solitamente sono quelle le mensilità a me. Capito Manuel? È così, la crisi c'è sempre stata e sempre ci sarà, c'è sempre stata da sempre, perché purtroppo non c'è per tutti, magari questa travaglio battuti, però ci sono tante nascite, la gente cresce, il governo e lo Stato cosa fanno? Ai datori di lavoro dice prendi questo ventenne così i determinati contributi, i top contributi te li pago io, capito? E il trentenne lo lasciano a casa. È una cosa schifosa. Allora? Sì, sono Luigi. Tu? Che stai mescando? Mescando. Adesso va bene. Ascolta a me, ma l'hub ancora ce l'hai tu? E non è il hub. E portati lì, no? L'hub? Apre. No. Io c'ho questo qua, ma se te lo do, me lo controllo a vedere. Mi avevi detto cosa c'avevo, non so in Dio, dove va via. No, si accende la spia in trasmissione, accende e rimane la spia di trasmissione inserita. E non accende il display. Ah, lasciamelo. Te lo porto domani, così me lo controllo. Manuele. Attento, Manuele. Lecca, dimmi tu lì. Casino. Dove hai imparato a fare casino? Ci commi. Ehi, attore, aspetta un attimo, mica c'è Natalina con Luca. Ciao Natalina, ciao Luca. Ciao Tony. Boh, io non lo so dove andare qua. Gli assegni stellari. Io guardavo da lì, se non erano tolto, non lo so. Vai dove ti dice il cuore, Natalina. Cazzo, un casino, mi auguro che sono arrivati a un punto in cui... Natalia! Ui! Il radio è sempre bene, sto uscendo. Ah, stai uscendo bene, aspetta un attimo, dai, che sto guardando roba importante. Appa, fate il mago con X. Luca. Tony, sì. Tony. Dimmi Manuel. Sì. Perché? Cazzo, un po' di quaderno c'è comunque. ho fatto due fori al muro col trappano, adesso sto mettendo la lampa emergenza. Ah, andare. Ma dove più nessuno, rimango l'ascolto, ho detto. Ma cazzo ti pari il bisio? A me la gente che non mi saluta, non mi fa vedo più. E poi sopra pure a Marco, questo cazzo baracchino, la piglia cubo, tanto, facciale dai. Sì, non bisogna che cazzo è incazzato, ma non ne vale la pena a me. A me non me la fotte nulla, io non devo niente a nessuno, capito? E nessuno deve niente a me, quindi. E allora fotte dimmi. Allora, io sto bene così, non mi manca nulla. E ancora il giustificante sa come ti gioco io, poi. Dai Manuè, dammi 10 minuti. Sì, già sono qua in ascolto, va. Ok, appena fisco già entro. Sono qua, sono sul 23 dopo le 7. Va bene. Luca, ci sei? Manuele? E tu lì? Da Sinocchio. Sì, adesso sto provando a mangiare, mangio. Niente per zimare. Devi mangiare. Non rimagnà, tu arriva. Oh, iui. Una razza cosa bella, oh. Beh, fatti dai. Sì, ho già messo due tazzelli. Posso fare un bare dolce, sì, la brezza, ya. Bravo, sì. Tanto carica le tre camere da letto, va. E la vado a messa in camera. Quelle cucine sono già qua grande, lampada di emergenza, ma caluccia si accende, capito? Ho messo questa piccola che ho comprato da Bricomè, 34 euro. La mia costa 60, però qui c'ha la mobiliata di travaglio. Sì. Trappa. Vabbè, al manco del Macaluzzi si vede, fra Zambedruzzi, c'ha 4 ore di autonomia, mentre l'altra che io dentro c'ha 8 ore di autonomia. Andare, va benissimo, va bene dottorino, la sento un attimo, dai. Vabbè, dai, dopo il che ascolto sul 23, dai. Sì, già. Ok, ciao. Vabbè, tutti fuggiti ve ne siete. Cingo.